ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, mercoledì 27 dicembre. Bene, tredicesima puntata, il 27 dicembre, cosa possiamo dirci se non auguri, buone feste! E come dicevamo la settimana scorsa con Alan Sorrenti, i nostri sono auguri non di religione, non di classi sociali, ma sono auguri di cuore, veramente, a tutte quelle persone che sanno usare questi momenti di festa per stare con chi amano e con chi magari non riescono a vedere nella quotidianità, ma sono persone vicine sempre di cuore. Tutti quelli anche che credono ancora in Babbo Natale. Ragazzi, Babbo Natale è la vera istituzione in questo periodo. Chi ha a che fare con dei bambini ne sa qualcosa, ma anche non solo con i bambini. Auguri anche a tutti quelli che hanno veramente bisogno di auguri e di vicinanza degli altri esseri umani, quindi ragazzi ricordiamoci, restiamo umani, e auguri anche a quelli, e qui mi cito in prima persona, che 20 anni fa quando sentivano auguri di Buon Natale, bleh, Buon Natale, no, abbasso il Natale, abbasso le feste, abbasso tutto quello che è ordinario. Bene, auguri anche a noi, auguri perché sappiamo che non è così e che il Natale e il Capodanno e la Befana e tutto questo periodo sono momenti veramente di cuore ragazzi. Detto questo, passiamo dal momento fricchettone amoroso, andiamo avanti. Ora vi lascio con il nostro primo brano, che ovviamente non poteva che essere natalizio, quindi partiamo con un bel Jingle Bell Rock, e poi oggi abbiamo degli ospiti e un po' di cose da raccontarvi. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and mingle in the jingling feet, that's the jingle bell rock. Eccoci di nuovo, allora oggi siamo con due ospiti speciali, Tatiana e Denise, che sono parte di un gruppo parentale molto interessante, direi, che io ho conosciuto quest'estate perché ci hanno ospitato per un evento, e organizzano con questo gruppo parentale diverse attività sul territorio del Monferrato. Il gruppo parentale si chiama La Quarta Foglia, e adesso io lascerei la parola a loro, a Tatiana in questo caso, che ci spiega un attimo intanto com'è nato, le attività che svolgono e tutto quello che succede intorno, insomma, a questo gruppo parentale in un territorio che è molto esteso e che ha bisogno di gruppi come questi. Allora, intanto ciao ragazze, ciao Tatiana, ciao Denise. Ciao. Ciao, grazie di essere con noi. Ti chiedo, Tatiana, ci racconti un po' cosa succede nel Monferrato, cosa succede con la Quarta Foglia, come è nato questo gruppo? Sì, molto volentieri. Intanto ti ringraziamo da parte di tutti i componenti per questa opportunità, questa intervista, insomma, questa opportunità di far sapere di un qualcosa che sul territorio nazionale sicuramente ormai è una realtà, quella degli asili parentali, dei progetti di educazione parentale. Nel nostro territorio però in particolare no, non è così frequente trovarne, siamo un pochino una mosca bianca. Diciamo che partendo dall'inizio, facendo due passi indietro, quando io cercavo una realtà un po' particolare nell'età appunto della fascia della materna, e rientravamo da fuori Italia dove avevamo trascorso un periodo di qualche anno e cercavamo qualcosa di affine a quello che avevamo vissuto fuori dall'Italia, quindi una realtà molto a contatto con la natura, non trovavamo nulla, insomma eravamo abbastanza disperati perché di progetti all'aria aperta non ce n'erano. E poi dopo un anno di ricerche finalmente troviamo un asilo parentale in natura, e era nato da 7-8 famiglie per appunto la volontà di creare un'opportunità educativa e di crescita, non per forza in opposizione a quello che c'era, ma che offriva opportunità diverse che purtroppo la scuola pubblica o anche gli asili privati classici non tenevano in considerazione. E fortunatamente quell'anno poi abbiamo trovato sul territorio canellese un progetto di questo tipo. Quindi voi avete proprio un asilo che nella quotidianità accoglie bambini del territorio e lavora con loro quotidianamente proprio come scuola. Sì, allora, forse di asilo non so dirti che cosa abbiamo. Abbiamo sicuramente la regolarità, la frequenza, e poi sicuramente abbiamo degli approcci educativi non tanto conformi allo standard degli asili convenzionali. Perché sì, noi ci offriamo come opportunità sul territorio, abbiamo una connotazione educativa legata all'outdoor education, abbiamo una parte dentro dove poterci rifugiare quando ci va, abbiamo quindi un casotto di quelli piemontesi, un po' più ampio del normale, però che ci offre la possibilità appunto di stare dentro quando preferiamo stare dentro. Però tutte le nostre giornate, che vanno sì dal lunedì al venerdì, tutte le mattine, tutti i giorni si esce. Diciamo che giornate in cui siamo stati solo dentro si contano. Ma chiedono ormai anche i bambini, che poi quando si abituano non sono spaventati dalla giornata, anzi a volte ne trovano il lato, diciamo, quello che sembra più difficile da vivere invece per loro diventa un'avventura, no? Cioè magari la pioggerellina o il freddo proprio magari sotto zero diventa una cosa anche divertente da riuscire a fare. Certo, sì. Quindi è assolutamente una forma laboratoriale diversa da quella che propongono le scuole dell'infanzia o gli asili nido comunali e statali. Perché le famiglie stesse non sono abituate ad affrontare dei percorsi di questo tipo in molti casi, e invece io onestamente vi stimo tantissimo e supporto i vostri percorsi al 100%, perché effettivamente il bambino più è lasciato in natura, ma soprattutto libero di scegliere i giochi che vuole fare e proporre anche magari, perché comunque da quello che so voi accettate e ascoltate le proposte dei bambini e le elaborate insieme a loro per farle diventare veri e propri progetti. Quindi insomma io poi devo dire la verità, sono avvantaggiata perché il vostro posto l'ho visto, quindi sono stata con voi e ho visto di cosa parliamo, quindi è veramente una struttura molto interessante. L'hai un po' sminuita Tatiana, tu l'hai fatta un po' più un po' meno di quello che è veramente molto bella, perché insomma. Ah, perché sei piemontese. Essendo piemontese abbiamo questa tendenza al ribasso, no? A dire così poi nessuno ci critica, se vedono. Stai nel tuo. Sicuramente, allora, il nostro è un progetto che parte, ha una natura molto semplice, ma la semplicità è complessa. Quando non si sovraccarica di tante regole, In realtà è molto più complesso di quando invece è un'idea è molto regolata, no? Un progetto è, quando è molto regolato, in realtà non è caratterizzato da complessità. Faccio l'esempio, quest'anno il tema saranno gli alberi, e il mondo vegetale, quindi arboreo e erbaceo, però quello che poi ci dà la direzione è il tema emergente, il programma emergente, come qualcuno lo ha denominato. E noi ci siamo accorti che c'era, no, studiando, perché il nostro è un percorso di formazione continua, e come educatori ci siamo resi conto che esisteva una formula pedagogica per quello che noi stavamo facendo anni fa, che appunto è il programma emergente, per cui siamo come un po' come il castello errante di Howl, no? Che ci mettiamo in movimento piano piano con questo grosso essere fatto di tanti elementi, di tanti pezzi che a volte si aggiungono, a volte si perdono, e quando poi siamo pronti e abbiamo le idee chiare, funzioniamo e tutto è a regime, è novembre. Quindi diciamo che abbiamo questa modalità di iniziare con calma, no? Fare passi, vedere cosa si aggiunge, cosa lasciare indietro, cosa emerge. E quest'anno, per esempio, è emerso il tema del un po' magico dei draghi, del mondo della magia. Certo. Partiamo dal desiderio di ciascuno. Certo, e voi fate anche progetti extra asilo, diciamo, in un certo modo, no? Perché ho visto dei centri estivi, ho visto degli eventi, dei laboratori, insomma, anche esterni, no? Che coinvolgono a quel punto anche la cittadinanza e anche le famiglie che non fanno parte quotidianamente di questo percorso, ma che si affiancano a voi e vedono un po', diciamo, sulla vostra stessa linea, no? Avete anche una sorta di programmazione esterna, insomma. Sì, quando Denise ci ha parlato di te, che abbiamo avuta con noi, era proprio per un laboratorio esterno offerto a tutti. E questi progetti che noi da quel momento abbiamo iniziato a essere un pochino più rivolti all'esterno, no? Il nostro sguardo si è rivolto un pochino più all'esterno, perché abbiamo maturato delle competenze, abbiamo creato un tesoretto di opportunità e di situazioni, di stimoli che non volevamo rimanessero solo per noi. C'è tanto bisogno su questo territorio di opportunità per i bimbi e per i ragazzi, quindi è un percorso che non si ferma all'asilo, ma che guarda oltre, quando poi cresceranno e ovviamente, non è ovvio, scusami, oggettivamente mancano delle opportunità educative, ludiche, ricreative qui da noi. Infatti anche appunto l'evento a cui hai partecipato anche tu, che c'è stato a giugno al Giardino dei Tassi di Vaglio Serra, è anche un po' un modo per, sì, sicuramente per far riscoprire dei luoghi e viverli anche come genitori, no? Non soltanto, cioè, quindi come famiglia, che è un momento un po' per tutti, ed è questo anche un po' il filo del gruppo parentale. Certo. Che dà sostegno nei momenti in cui ci sono poi appunto delle difficoltà e si ha bisogno di confronto e guardare altri serve, ecco. Beh, ragazzi, allora intanto grazie di queste spiegazioni, di questa, insomma, di esservi fatte conoscere, e poi sicuramente ci risentiamo verso la primavera estate, perché ci darete i vostri appuntamenti estivi, perché immagino che come ogni anno vi muoverete e vi inventerete di nuovo qualcosa di fantastico anche quest'anno. Quindi io darei appuntamento a una seconda chiacchierata con voi intorno al mese di maggio più o meno, e poi intanto io vi ringrazio. Come si fatta rossa, ma pare una cerasa, te voglio la nuvasa, a domma piace a me. Te voglio la nuvasa, a domma piace a me. Uè, lascia mamma te viene con me. come si fa taglianga, come la neve alla montagna, li capilla la mascagna, tu m'hai fatto innamorare. Li capilla la mascagna, tu m'hai fatto innamorare. Uè, uè, uè, la samba ma te viene con me. Eccoci tornati con questa fantastica tarantella, come si fa tarossa, e abbiamo adesso sempre ospiti dalla Quarta Foglia, quindi questo gruppo parentale piemontese interessantissimo e simpaticissimo, una famiglia. Abbiamo questa famiglia composta da mamma, papà e bimbo piccolissimo, perché ha 2 anni, che ci raccontano un po' la loro storia e come si sono affiancati alla Quarta Foglia, perché ogni famiglia ha un po' il suo percorso e chi affronta strade diverse a livello proprio scolastico ed educativo per i propri figli fa delle scelte ben precise e ragionate, maturate nel tempo. Andiamoli ad ascoltare e chiediamo a loro anche perché e come hanno deciso, ecco, di affiancarsi a questo percorso. Ciao. Ciao. Ciao. Ebbene sì, abbiamo traslocato. Sì, abitavamo ad Alessandria. Perché? È una domanda che ci ha accompagnato per lungo tempo. Perché abitavamo ad Alessandria? In realtà cercavamo un posto fuori, in campagna, tranquillo. In campagna? Sì. Campagna dov'è? Nel frattempo, per Django era quasi ora di iniziare ad andare in asilo e siamo andati all'open day di questa bellissima situazione parentale qua a Cortiglione e ci siamo innamorati del progetto, delle persone e quindi abbiamo deciso di focalizzare la nostra ricerca in questa zona e di lì a un mese praticamente ci siamo trasferiti. Django sta iniziando ad andare una volta a settimana e... perché è ancora 3 anni. Sì. E ci divertiamo. Ti diverti alla quarta? Alla sì. E con chi vai? Santiago. C'è Santiago, sì. Poi? Samuele. C'è Samuele dei grandi, poi? Maya. La nostra amica Maya. Sì, sono 3 bimbi piccoli piccoli che stanno facendo inserimento. Sì, la sezione germoglio. Esatto. E quindi sì, ci siamo trasferiti perché sentivamo molta coincidenza con il progetto. Ci piace molto questa possibilità di stare in natura, di stare con le altre famiglie, con gli altri bimbi in un modo focalizzato su una crescita armonica. Salutiamo Django. Saluta un po'. Ciao ciao. They wanted me here just to show you my face, but when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same, 'cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you to obtain. I asked the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with the backs of my soul. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now. But I call it compromise. I thought that you were. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you womanize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I'm under your curse. Abbiamo ascoltato i Morcheeba e adesso ascoltiamo invece i bambini, perché abbiamo parlato con una famiglia del gruppo parentale La Quarta Foglia, questo gruppo interessantissimo piemontese che ci accompagna in questa puntata. Abbiamo parlato con le ragazze che hanno avuto l'idea e hanno creato insomma un po' questo gruppo qualche anno fa, e quindi abbiamo avuto le voci degli adulti, ma ora vogliamo le voci dei bambini. E ovviamente, capitanati dalla nostra mascotte, ora vi lasciamo a un'intervista, ma non so neanche se definirla tale, potrei dire una chiacchierata, tra i bambini della Quarta Foglia e la nostra mascotte bolognese. Ascoltiamo cosa si raccontano. Quindi lui si chiama Francesco. Si chiama Franci, detto Franci. Ok, e abita nel Monferrato, è piemontese, quindi è lontano da noi, no? Tu mascotte. Sei piemontese! La nostra mascotte della radio qui è a Bologna, tu invece no, tu sei in Piemonte. Sei vicino ad Asti, nel Monferrato, in un posto bellissimo che noi conosciamo oltretutto, quindi stai in un posto stupendo, Francesco. Franci, ci racconti qualcosa di quello che stai facendo in questi giorni? Dove abiti nel tuo posto? Che fai di bello? Raccontare tu dove abitare, cosa fare in questi giorni. Ah giusto, sto facendo anche dei barattoli, che li riempio d'acqua. Dopo prendo un pezzo di carta bianca, ci disegno con il pennarello il colore che voglio e lo metto dentro, e dopo quando vedo il colore che spare dalla carta, io lo scuoto e diventa di quel colore. Wow, fai dei barattoli, sono barattoli magici. Ciao. Ciao. Ma voi cosa fate quando nevica? Cosa ci fate con la neve? Ci giocate? Cosa fate? Palli di neve, fortini di neve, discesa col Bob. Esatto. Wow. Battaglia palle di neve. Perché siete in mezzo alle colline, ragazzi, noi siamo in piena città, qua come facciamo ad andare a fare le discese col Bob? Andate al parco, trovate qualcosa. Prendete dallo scivolo col Bob. Grande, dallo scivolo col Bob. Allora, qua sono tre maschi e quindi c'è sempre molta emozione. C'è molta emozione anche con una mascotte femmina, quindi non c'è problema. A proposito, Erika, un taglio maranza. A proposito di un tema che hai trattato. Abbiamo il taglio maranza di capelli, sì, di con i fulmini filati. Di Lele, perfetto. Di Francesco. Ah, di Francesco. Mamma santa, Francesco Maranza, no, è troppo presto. No, sei ancora troppo piccolino per essere Maranza. Aspetta, una definizione su Maranza che non ho potuto dire è che i Maranza sono adolescenti che vanno in giro a bullizzare con delle scarpe nuove, con sedute nuove, ma tarocche. Tarocche, ah, quindi una delle... Con le scarpe tarocche e con talli che fa schifo. E quando siete venuti da noi ne avete incontrato uno, ma non lo è veramente. Ah, ok, bene. E Giulio, io da me sono nevicati unicorni. Va bene, allora facciamo un ciao finale tutti insieme, salutiamoci così. No, Lele, ciao. E allora grazie ai bambini della Quarta Foglia per averci raccontato le loro avventure e aver chiacchierato con noi.